vi lascio solamente due parole in questo tempo in cui ci stiamo preparando a ricevere lo Spirito Santo. Vi invito a farvi cercatori, come una caccia al tesoro, andare a cercare un indizio, magari nascosto in mezzo agli altri. Questa è la caccia al tesoro. E questo indizio che è nascosto in mezzo agli altri è gli accenni che la liturgia e la Bibbia fa allo Spirito Santo. Voi avete sperato in Cristo, dice Paolo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, che è la caparra, l'anticipo, il pegno della nostra eredità. Ecco che voglia il Signore aiutarci in questa caccia al tesoro, perché non è mai facile. Avete sentito anche quando dovevano scegliere il sostituto di Giuda, se ne presentano due, Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia. E loro come fanno? Loro fanno come si fa oggi, cioè si fa presentare il curriculum, no? Si fa presentare gli studi che hanno avuto. Ma no, così fanno gli uomini. Pregarono dicendo: Signore, tu conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Certamente questi due non vengono fuori dal niente. Hanno scelto una persona che era stata con Gesù fin dall'inizio, quindi non vanno così a casaccio. Io sottolineo sempre, quando dobbiamo fare una scelta che è importante e ci troviamo davanti a due scelte ugualmente buone, ma noi non sappiamo quale delle due è volontà di Dio per noi. Io dico, invochiamo tanto lo Spirito Santo e il dono del consiglio. Voi sapete che il dono del consiglio non è tanto tra lo scegliere una cosa giusta e una cosa sbagliata, no? Questo è il dono della prudenza. Il consiglio è la capacità di discernere, e viene dallo Spirito, tra due cose ugualmente buone, ma quella che è volontà di Dio per noi e l'altra che, pur essendo buona, non è volontà di Dio per noi. Questo è il dono del consiglio. E allora noi dobbiamo diventare devoti dello Spirito Santo. Se permettete, vi suggerisco, come faccio io e come suggerisco agli altri, persino quando facevo il corso di preparazione ai fidanzati e magari mi capitava una coppia che era un po' indecisa, no? Io dicevo: guardate ragazzi, prendete un quaderno, dividete una pagina a metà, su una parte scrivete, ognuno per conto suo, perché sì, cioè perché sceglieresti questo uomo, questa donna, e dall'altra perché no. Pregate il Signore e vi mettete lì utilizzando la vostra intelligenza, perché anche l'intelletto è un altro dono dello Spirito Santo, amici. Signore, attraverso lo Spirito, coltiva la nostra mente, sapienza, intelletto, consiglio, scienza. E allora dico, ci ha dato l'intelligenza apposta il Signore, ci ha dato la sapienza apposta. Mettiamoci lì, perché sì e perché no. E quando ci hai pensato, presenti al Signore la tua scelta e gli dici: Signore, io con la mia intelligenza che mi hai dato tu, avrei fatto questa scelta. Ti prego, se corrisponde alla tua volontà, fammi camminare su questa strada. Se invece non corrisponde alla tua scelta, dopo che ho percorso un po' di questa strada, mettimi lavori in corso, vietato proseguire, e io tornerò indietro. Ma è importantissima la scelta, amici, per due che si sposano, per uno che deve... Ma devo cambiare lavoro o non devo cambiare lavoro? Quante volte il sacerdote si sente fare queste domande? Io non rispondo mai, fai così, fai cos'ha. No, interroga tu lo Spirito. Poi, se tu vorrai condividere con me le scelte che hai fatto, io, stando all'esterno, invocando anch'io lo Spirito Santo, ti potrò dire, guarda, mi sembra che hai ragionato bene, oppure mi sembra che qui forse io non sarei tanto d'accordo. Ma com'è importante la scelta. La Chiesa dei primi tempi si è trovata in queste stesse situazioni da dover scegliere e si è affidata a Dio. Ecco, che possa lo Spirito Santo con i suoi doni aiutarci ad avere la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la scienza, tutti i doni dello Spirito Santo, e con l'aiuto di Dio possiamo discernere, possiamo distinguere tra due cose buone qual è la volontà di Dio per noi.